24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Barroso dice nessun piano B per Atene, servono fiducia e austerity. E sulla crisi greca l'appello degli Stati Uniti, l'Europa parli con una voce sola. Tutti positivi i listini del vecchio continente in attesa di spiragli sulla Grecia. Bentrovati da Roberta Pellegatta all'appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la crisi greca è un appello alla responsabilità, quello lanciato dal Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, all'indomani del congelamento dei 12 miliardi di aiuti deciso dall'Eurogruppo in attesa del voto del Parlamento greco sul piano di austerity previsto per martedì prossimo. In questo momento eccezionale serve il coraggio eccezionale di tutti, ha detto il capo dell'esecutivo di Bruxelles, rivolgendo un appello molto sincero e forte all'opposizione greca perché approvi il nuovo pacchetto di misure per risanare i conti pubblici. Per il successo del programma, ha spiegato Barroso, la Grecia deve fare la sua parte. Gli occhi dunque sono puntati al 28 giugno. Sentiamo Barroso. Next week is the moment of truth where Greece needs to demonstrate. La prossima settimana rappresenta il momento della verità in cui la Grecia deve dimostrare il proprio impegno circa l'ambizioso pacchetto di misure fiscali e di privatizzazione messo a punto dal governo Papandreou, in accordo con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Il mio messaggio è chiaro, se Atene agisce l'Europa aiuterà. Esiste un piano e invito tutti ad agire sulla base di quel piano. Penso sia meglio agire piuttosto che parlare. Credo che siamo in un periodo in cui è necessario un uso strategico del nostro sistema di fondi ed è importante dimostrare ai nostri amici greci che il cammino verso l'uscita è sì difficile, ma c'è speranza. Ecco perché vorrei chiedere al Consiglio europeo di discutere di ciò che possiamo fare per aiutare la Grecia, al di là degli sforzi di consolidamento di bilancio, perché possa aumentare la competitività e creare posti di lavoro. La Grecia ha il potenziale per accedere a ingenti fondi europei che dovrebbero concentrarsi dove c'è maggiore necessità, ossia per aumentare la competitività e l'occupazione. Dobbiamo coordinare questi fondi in modo che abbiano un forte impatto e trovare il modo per accelerarli per far sì che la Grecia ne abbia beneficio ora. Londra intanto ribadisce che non parteciperà ad un eventuale secondo piano di salvataggio per la Grecia. Il premier britannico David Cameron, parlando in conferenza stampa, ha tenuto a sottolineare che è nell'interesse di Londra che la zona euro sia stabile e sana, visto che qualunque severa turbolenza farebbe sentire i propri effetti anche sui mercati d'oltremanica. L'Italia non è tra i paesi a maggior rischio contagio per la crisi greca, lo ha affermato tornando sui suoi passi e smentendo l'intervista rilasciata ad un giornale tedesco nel fine settimana, Jean-Claude Juncker. Il presidente dell'Eurogruppo così spiega la sua posizione. Recentemente ho messo in guardia dagli effetti di un possibile contagio derivanti da decisioni sbagliate che potrebbero scatenare reazioni irrazionali da parte dei mercati. In particolare l'oggetto del discorso riguardava il coinvolgimento del settore privato. Al di là di questo, credo che alla fine di questa crisi l'Europa ne uscirà rafforzata, sempre che impari la lezione. E sull'Italia è intervenuta la presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Di noi, come sapete, abbiamo sempre chiesto la contemporaneità delle due cose, cioè rigore e crescita. In questo momento però molto delicato, dove c'è in discussione il piano di salvataggio della Grecia, Moody's ha dato questo avvertimento, diventa essenziale approvare prima possibile la manovra da 40 miliardi di euro che noi abbiamo messo nel piano nazionale delle riforme, che è stato approvato dal Parlamento, è stato approvato dalla Commissione europea, e nello stesso tempo, come dire, andare avanti anche su una serie di elementi, provvedimenti che possono aiutare la crescita, tra cui anche la riforma fiscale. Il processo di risanamento dell'economia spagnola non è completo e permangono rischi considerevoli. È quanto scrive il Fondo Monetario Internazionale in un rapporto scritto al termine di una missione di valutazione in Spagna. Secondo il Fondo, in particolare, è incompleta la riforma del mercato del lavoro e serviranno misure aggiuntive. Il Fondo Monetario riconosce tuttavia che la risposta politica alle sfide economiche della Spagna nel corso dell'ultimo anno è stata ampia e solida, il che aiuta a rafforzare la fiducia dei mercati. Non di meno, restano rischi significativi, fra cui la possibilità di un aggravamento della situazione finanziaria del paese a fronte di una crescita modesta e di un tasso di disoccupazione molto alto. Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Timothy Geithner, intervenendo a un dibattito organizzato dal Wall Street Journal, ha esortato l'Europa a parlare con una voce sola, una voce chiara, sulla crisi in Grecia. È molto difficile per le persone che investono in Europa capire quale strategia verrà adottata quando sono in molti a parlare, ha detto Geithner. L'Unione Europea ha un insieme complesso di istituzioni, ma devono concordare una strategia e fare chiarezza. L'indice ZEV, che misura la fiducia degli investitori tedeschi, è precipitato a giugno ai minimi di 2 anni e mezzo, segnando meno 9 da 3,1 di maggio, un livello che non si vedeva dal gennaio 2009. Secondo l'istituto di ricerca di Mannheim, pesa la crisi del debito europeo, ma i listini del vecchio continente snobbano questo dato e chiudono tutti positivi. Parigi guadagna il 2,04%, Francoforte l'1,89%, Londra registra un più 1,44%. Bene anche Piazza Affari. Giornata di recupero per le borse europee. L'attenzione degli operatori è stata catalizzata dalla Grecia in attesa del voto di fiducia del Parlamento sul nuovo governo di Atene. I bancari, duramente colpiti alla vigilia, hanno mosso tutti in rialzo e anche Milano ne ha approfittato col FTSE MIB che ha chiuso a più 2,08%, il FTSE All Share a più 1,99%. Oltre al buon andamento di Intesa San Paolo, più 3,1% e Unicredit, più 2,15%, si è messa in luce l'ottomatica. A spingere il titolo, che ha guadagnato il 6%, la forte crescita del settore dei giochi a maggio, con i dati sul mercato delle scommesse che hanno mostrato un progresso del 21,8% a 6 miliardi di euro. Bene anche Saipem, più 4,05%, che nei giorni scorsi ha annunciato contratti per 600 milioni di dollari. Fra i titoli a minore capitalizzazione balzo di Sogefi, più 4,69%, dopo che la controllata del gruppo De Benedetti ha portato a termine un'acquisizione nel settore della componentistica per auto. Forti acquisti infine su Edison, più 6,18%, sulle attese di un'accelerazione del riassetto della società controllata da A2A e dai francesi di EDF. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di calciomercato. Mentre Fabio Capello si allontana dalla panchina dell'Inter, Alexis Sanchez è sempre più vicino al Barcellona. I campioni d'Europa sarebbero a un passo dal talentuoso cileno dell'Udinese, ma la cifra non è ancora quella giusta, spiega il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo. C'è il giocatore che evidentemente lui spinge per quella soluzione. Sì, ma in questo momento Barcellona, perché in realtà quella dove ha presentato un'offerta, diciamo, adeguata, che non lo è ancora, perché minimo lo devi pagare 50 milioni. Non c'è niente da fare. Quando viene fuori un giocatore così, metti i soldi e non se ne parla più. Tennis adesso, vittoria e pianto dirotto per Serena Williams sul centrale del torneo di Wimbledon. La statunitense, detentrice del titolo, è tornata a giocare dopo un anno difficile per vari problemi di salute e al termine del match, vinto contro la francese Rezaï con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1, è scoppiata in lacrime. Oggi in campo l'italiana Francesca Schiavone, che nel secondo turno affronta la canadese Wozniak, e Simone Bolelli, che affronta lo svizzero Wawrinka. E dallo sport all'arte del restauro. Batteri che, divorando vecchie colle sporcizie, riportano agli originali splendori affreschi storici, antichi marmi, pietre scolpite. Una tecnica di biopulitura selettiva e non invasiva tutta italiana che ora sbarca in Europa. Giancarlo Ranalli, microbiologo dell'Università del Molise, pioniere della messa a punto di questo metodo. Il batterio da noi usato non è tossico né per gli operatori né per l'ambiente, tantomeno per le opere d'arte se ben guidato. Questo è assolutamente un lavoro pionieristico iniziato alcuni anni fa, esclusivamente italiano, tra le università del Molise e l'università di Milano. Poi è andato confermandosi con le applicazioni nel Camposanto Monumentale di Pisa e più di recente nel ciclo di Buonamico Buffalmacco, dove il trattamento proprio con batteri è durato soltanto 2 ore. Noi siamo pionieri dal 2000. In realtà, diciamo, la cronaca di questi ultimi giorni mette in risalto l'estensione di questa applicazione a livello europeo, quindi abbiamo superato i confini. Siamo in Spagna e con i colleghi di Valencia, appunto, in questi giorni si è trasferita la tecnologia ottimizzandola in loco per le esigenze che mostravano questi affreschi, peraltro presenti ancora sulla volta della chiesa di Santo Juan, con affreschi di Antonio Palomino del XVII secolo. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.